numeri innanzitutto. La tendenza al calo dei nuovi contagi sembra arrestarsi. Ieri gli attualmente positivi sono stati 2.900 in più, oltre 700 i morti, più di 1.000 i guariti. La curva epidemica sembra però appiattirsi, soprattutto in Lombardia. Si teme che questi dati, uniti alla confusione sul tema delle passeggiate con i bambini, portino ad un rilassamento e ad un allentamento delle misure e dell'attenzione di ciascuno di noi. Le misure, intanto, sono state prorogate fino al 13 aprile. A proposito di confusione, ieri il sito dell'INPS non solo è andato in tilt per le troppe domande per i 600 euro agli autonomi, ma è anche stato protagonista di una clamorosa violazione della privacy. Per un certo periodo di tempo i dati degli utenti sono stati visibili anche dagli altri. Si discute nel frattempo della riapertura, della ripartenza, come, quando, in quali parti del paese. Questo è 24 Mattino, io sono Simone Spezia e possiamo iniziare. "24 Mattino" di Simone Spezia. Iniziamo come sempre con il nostro inno, con Bob Marley, che ci dà coraggio e ci dice che tutto andrà bene. E a un certo punto succederà, nonostante le centinaia di vittime che contiamo in questi giorni, non solo da noi, in altri paesi d'Europa. Pensate solamente alla Spagna, negli Stati Uniti, dove ieri se ne sono contati oltre 800. Nonostante tutte le vittime non contate di questa crisi epidemica, quelli per esempio nelle case di riposo che spesso abbiamo raccontato, e però ci siamo e speriamo, no? Siamo qua che speriamo. Aspettiamo il momento nel quale, insomma, tutto questo finirà. Non sarà immediato, non sarà una cosa che avverrà in un istante, sarà un processo un po' lungo, e pensiamo un po' tutti a quello che ci manca in questo momento, una bevuta tra amici, ora che arriva la primavera, i piedi nudi su una spiaggia, una passeggiata in un prato. Però arriverà il momento, arriverà. E Bob Marley serve a darci coraggio. Voi come ve lo state dando? 349-238-6666 per i vostri WhatsApp audio o anche scritti, naturalmente. Però, insomma, le vostre voci sono particolarmente importanti in questi giorni. Ci trovate anche in diretta su Facebook, se voleste seguirci là. C'è Laura Vanossi in assistenza, Giorgio De Luca in assistenza in redazione, Peter Bescapè in regia. Iniziamo. Allora, ieri il Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, si è palesato alle 20:20 in conferenza stampa per annunciare il fatto, in realtà un fatto già previsto, che le misure di chiusura saranno prorogate. Sentiamolo, va. Ci rendiamo conto che vi chiediamo un ulteriore sforzo, un ulteriore sacrificio, ma questo lo dobbiamo afferrare tutti. Se noi smettessimo di rispettare le regole, se iniziassimo ad allentare queste misure, tutti gli sforzi in cui fatti sarebbero vani. Quindi addirittura pagheremo un prezzo altissimo, perché oltre al costo psicologico, al costo economico, sociale che sin qui stiamo affrontando, saremo ricostretti a ripartire di nuovo. Un doppio costo, non ce lo possiamo permettere. Sempre Conte sulla minoranza che non si attiene alle regole. Invito tutti anche a continuare a rispettare le misure. E attenzione, c'è una sparuta minoranza, per fortuna una sparuta minoranza di persone, ci sono alcuni che non rispettano le regole. Vorrei ricordare che abbiamo disposto delle sanzioni molto severe, delle multe anche onerose dal punto di vista economico. L'abbiamo fatto perché non ci possiamo permettere che l'irresponsabilità di alcuni si produca, possa comportare un danno nei confronti di tutti. Oh, poi ovviamente in questo momento, che lo abbiamo detto mille volte, è estremamente delicato, bisogna fare attenzione, stringerci l'uno all'altro. Oh, poi il paese è sempre quello che è, e quindi siamo andati nel delirio in tre giorni per tutta questa storia dei bambini. Allora, si può uscire con i bambini a fare una passeggiatina oppure no? Dunque, lo deve chiarire una circolare del Viminale, che poi non chiarisce niente, quindi poi deve intervenire la ministra Lamorgese e chiarire ulteriormente il chiarimento del Viminale, sul quale poi arriva il chiarimento del Presidente del Consiglio, che però non chiarisce moltissimo. Beh, qui vorrei dire che noi non abbiamo affatto autorizzato, c'è stata questa circolare interpretativa del Viminale del 31 marzo, non abbiamo affatto autorizzato l'ora del passeggio con i bambini, questo lo vorrei chiarire. In fase di interpretazione abbiamo semplicemente detto che se ci sono dei bambini e figli minori, quando un genitore va a fare la spesa, siccome i bambini sono gli unici che non possono uscire, si può consentire anche l'accompagno di un bambino, ma questo non deve essere l'occasione per il genitore di andare a spasso e di avere, come dire, un allentamento delle misure restrittive. Come l'ho già detto, noi dobbiamo assolutamente preservare questo regime. Proprio adesso che si inizia a vedere i primi effetti positivi, non dobbiamo abbassare la soglia di attenzione, la soglia di guardia. E quindi, allora, scusate se ci metto un filo di polemica, certo, non ci vuole la polemica in questo momento, ci metto un filino di polemica. Dunque, mio figlio lo posso portare con me al supermercato, che probabilmente è il luogo di più ampio assembramento in questo momento, e non lo posso, o meglio, posso portarlo poco a passeggiare intorno a casa. Addirittura il presidente del Veneto, Luca Zaia, dice non più di 200 metri. Nei 200 metri, entro i 200 metri da casa, si può uscire. Ovviamente evitando di radunare tutto il contatto o i parenti e fare una partita di calcio, si va in solitaria con un bimbo. Vabbè, allora l'audio è pessimo e quindi insomma ve lo risparmio nella sua forma integrale. Dice Zaia, cioè, 200 metri di distanza. Oh, stamattina sono andato su Maps, su Google Maps, ho fatto un calcolo. Praticamente è un quarto del mio isolato, 200 metri, quindi non so, insomma, è pochino, però insomma. Questo dice. E l'assessore Lombardo Gallera, insomma, dice così, si passa un messaggio pericolosissimo. Non va bene, perché oggi ci sono 10 persone che portano i bambini a giocare, domani ce ne sono 100 e dopodomani ritorniamo in una situazione in cui si creano le condizioni della diffusione del virus, perché si riduce o addirittura si polverizza quel distanziamento sociale che invece è assolutamente necessario e fondamentale. E allerta bambini dunque, i nuovi untori, tanto che racconta il quotidiano La Repubblica, pagina 9, la storia di una mamma di Milano, Federica, 38 anni, volevo portare fuori mia figlia, ma dopo aver visto quello che scrive la gente ho quasi il terrore di farlo. Praticamente è stata insultata a nastro da una serie di persone che, non essendo single, non potendo uscire con i figli, insomma, l'hanno attaccata, e si è ritrovata i poliziotti che le hanno detto: senta, gentilmente, per calmare gli animi, potrebbe tornare a casa? Ah. Poi c'è tutta la storia dell'INPS, ci arriviamo tra un attimo, perché poi il paese resta sempre quello. Oh, c'è un paese invece che ci sta facendo molto discutere in questi giorni, un paese con il quale abbiamo avuto a livello governativo e a livello economico delle discussioni abbastanza violente, in tema di aiuti. di aiuti da parte dell'Europa. Ci riferiamo all'Olanda. E noi però abbiamo deciso di prenderla sotto un altro aspetto. Abbiamo deciso di cercare di capire come l'Olanda sta gestendo la questione coronavirus, la questione Covid-19, perché, come ben sappiamo, è una questione europea e mondiale a questo punto. Allora, un'associazione che si chiama la Italian Professional in the Netherlands, e quindi i professionisti italiani in Olanda, nei Paesi Bassi, ci ha messo in contatto con Nicoletta Morelli, che è una pneumologa che lavora al centro medico Merem a Hilversum, che è un paese vicino ad Utrecht, appunto, in Olanda. Buongiorno Morelli, benvenuta. Buongiorno. Allora, come viene gestita in Olanda la questione Covid-19? Innanzitutto mi sembra di aver capito che dal punto di vista contagi, vittime, la situazione non sia così grave come da noi o come in Spagna, no? No, quello no. A ieri il conteggio delle persone decedute era 1073 con contagi intorno ai 10.000, però i tamponi qua non vengono fatti a tappeto, quindi lasciano supporre che quelli noti sono un terzo dei casi realmente. Un terzo dei casi realmente. Allora, come viene gestita nel paese nel quale lei vive e lavora, credo, da qualche anno, insomma, Morelli, no? Sì, da 13 anni. 13 anni, quindi non poco. Come la stanno gestendo? In termini di regole per la popolazione, sono state integrate a poco. Il primo caso è stato una settimana dopo l'Italia, diciamo il 27 febbraio, e il primo deceduto è stato il primo di marzo, quindi tutto si è svolto, diciamo, circa due settimane dopo lo scoppio dell'epidemia in Italia. E niente, ha introdotto regole a poco, diciamo che non è stato facile anche qua convincere la popolazione di quello che sta succedendo. Per molto tempo ci sono state un sacco di persone che hanno pensato che fosse un'influenza come un'altra, oppure un virus che colpiva solo gli anziani, e fino a che a un certo punto, diciamo, c'era un'escalation dei casi e quindi si è parlato di un lockdown intelligente. Ok, cioè, quindi per step, no? Mi pare di aver capito. Prego? Per step, dico, si è andati per step, sì, in sostanza, sì, come ci diceva. Fino a che, appunto, esatto. Sì. Fino a che siete arrivati a un lockdown simile al nostro, simile a quello italiano? Sì, diciamo che qua c'è la libertà di uscire, quindi chiunque può uscire, andare a fare sport. Quello che è importante è che ognuno tenga questa distanza di un metro e mezzo, nei negozi, fuori, sulla spiaggia, nei parchi, e poi comunque ristoranti, pubs, teatri, centri sportivi, scuole sono chiusi. Ascolti, sì. Morelli, come funziona dal punto di vista sanitario? Perché anche questo è un fronte interessante. Abbiamo fatto un po' un percorso nei giorni scorsi, no? Abbiamo sentito quel che succede in Germania, quel che succede in Francia, e insomma vorremmo capire anche da voi come la stanno gestendo le autorità olandesi. Diciamo che c'è una forte affluenza, specialmente nel sud del paese, dove è stato festeggiato il carnevale. Diciamo che il sud del paese è la parte cattolica, quindi a fine febbraio c'è stata una grande festa del carnevale e là c'è stato il primo caso e tutta una serie di casi. Tuttora è la parte più colpita dell'Olanda. Sì. Diciamo c'è una grande affluenza e il paese è preparato fino a un certo punto, nel senso che comunque negli anni passati ci sono stati diversi risparmi, quindi comunque anche il materiale di protezione è abbastanza limitato, mascherine fin dall'inizio, tamponi, e questo è anche il motivo per cui i tamponi vengono fatti esclusivamente alle persone che si presentano in ospedale con sintomi o dal medico di base, ma con sintomi respiratori. I posti in terapia intensiva inizialmente sono 1150, ma si sta anche qui attivando per arrivare almeno a 2000, proprio perché comunque la richiesta tuttora, ieri per esempio c'erano 1000 persone già ricoverate in terapia intensiva. Ci sono dei centri. Prego. No, ci sono dei centri, naturalmente, per esempio il nostro prevalentemente è un centro di riabilitazione polmonare che si è convertito a reparto di post acuti, persone quindi che sono state detubate, che vengono dalla terapia intensiva, proseguono il trattamento da noi fino alla dimissione. Allora, il racconto che ci sta facendo, Morelli, è un racconto, mi pare, tutto sommato, in un paese che sta affrontando una certa tranquillità la questione, per quanto no, conscio della difficoltà, ma con una certa tranquillità. Diciamo che c'è una forte preparazione, quindi un po' la, diciamo, la fortuna di non essere più un paese come l'Italia che si è trovato alla sprovvista, perché è il primo in Europa ad aver avuto un'epidemia così in poco tempo. Però generalmente, diciamo, il sistema olandese di prepararsi, preparare tutti. Quindi ci sono state diverse email, preparazione di protocolli, l'ordine dei medici nazionali mandava continuamente email per, se qualcuno aveva esperienza, per correggere i protocolli, è stato preparato il personale, quindi ecco, questo è importante. Sono state fatte delle apps in cui appunto pazienti a casa possono essere gestiti con apps, i medici di base sono stati preparati, quindi c'è tutto uno schema e questa è la loro, diciamo, prerogativa, la preparazione, le riunioni, il non essere colti impreparati, meno possibile. E questo è. Grazie Nicoletta Morelli per essere stata con noi, pneumologa, lavora al centro medico Merem a Hilversum, un paese praticamente molto vicino a Utrecht, in Olanda appunto, nei Paesi Bassi, e ci scrive un ascoltatore, un'ascoltatrice: la Svizzera sta gestendo in modo anomalo la questione, i frontalieri vanno regolarmente a lavorare, ma la Svizzera, guardate che anche là forse ci dovremmo andare, perché la stanno gestendo bene, hanno una percentuale di malati, di positivi al virus, che in rapporto alla popolazione inferiore solamente a quello della Spagna, per darvi la misura, e però in crisi non ci stanno andando, e anzi stanno accogliendo pazienti dall'estero nelle terapie intensive, e quindi forse anche quello è un modello sul quale ragionare. Traffico intanto. La giornata di ieri, già qualcuno di voi ha iniziato, chi era all'ascolto ieri lo sa, ne abbiamo parlato, perché un ascoltatore, un commercialista mi ha detto, ci ha scritto subito: guardate, sono qua dalle 4 del mattino e tento di accedere al sito dell'INPS, non ci riesco. Allora, ieri, come si diceva, è sempre l'Italia, il sito dell'INPS è andato oggettivamente in crisi. Nella giornata nella quale si iniziava a far domanda per i 600 euro di contributo per gli autonomi. Non solo si è impallato tutto a un certo punto, alcuni sono riusciti a fare la richiesta, altri no, tanto che oggi si è deciso di scaglionare, di passare dalle 8 alle 16, lo potranno fare patronati e intermediari, dalle 16 in avanti i privati cittadini, chissà che cosa succederà. Ma in più c'è stata questa clamorosa violazione della privacy. Utenti che entravano nel sito dell'INPS per fare la richiesta e che si ritrovavano davanti i dati degli altri. Abbiamo ricevuto degli attacchi hacker, dice il presidente dell'INPS Pasquale Tridico. Sentiamo. Noi abbiamo avuto questi attacchi di sciacalli, di hacker, non so come definirli, nei giorni scorsi, e per i quali abbiamo allertato il Dipartimento di Pubblica Sicurezza, la Polizia di Stato, la Polizia Postale. Ed è stato un evento molto spiacevole che si ha, come dire, ha eroso capacità di analisi e elaborazione del sistema. Immagini lei di mettere delle risorse a difendere, a scudare questi attacchi da una parte, e dall'altro devi mettere delle risorse a prevedere un accesso di 100 domande al secondo. Una pressione di questo tipo l'istituto non l'aveva mai vista, sebbene ha un potentissimo sistema informatico. E quindi si parte con gli accessi scaglionati, dice Tridico. Certo, si poteva anche pensare a uno scaglionamento, questo voleva dire ulteriormente razionalizzare un servizio. Noi vogliamo fare servizio pubblico a tutti, da domani faremo uno scaglionamento di questo tipo, cioè la mattina fino alle 16 dedicato essenzialmente a patronati e intermediari, e dopo le 16 anche ai cittadini. Questo però rallenta di nuovo l'immissione da parte dei cittadini, che potrebbero di nuovo mostrare lamentele. Così il leader della Lega, Salvini. C'è stato un ascolto di quello che non sono le proposte della Lega o del centrodestra, ma il grido d'aiuto che arriva dall'Italia, perché segnalare che il sito dell'INPS è in tilt, che ci sono milioni di lavoratori nell'incertezza, non significa alimentare le tensioni, significa segnalare un problema che c'è e aiutare a risolverlo. E chissà, caro Alberto Petranzan, presidente della Federazione Nazionale Agenti e Rappresentanti di Commercio, aderente a Confcommercio, quanti dei vostri erano là a richiedere i 600 euro. Buongiorno. Buongiorno. Assolutamente sì, anche i nostri stanno facendo la richiesta delle 600 euro. Siamo arrivati da settimane in cui noi eravamo esclusi da questo decreto nell'articolo 28 ed eravamo ricompresi nel fondo di ultima istanza. Grazie a delle nostre attività siamo stati ricompresi nell'articolo 28 e quindi i nostri colleghi agenti di commercio possono richiedere queste 600 euro. Allora, ci siete entrati, Petranzan, resta il problema generale. Qua andiamo avanti, insomma, stiamo facendo da qualche giorno, raccogliendo un po' le istanze, le esigenze e anche, se vogliamo, la sofferenza, no, dei settori, dei vari settori produttivi, in particolare i professionisti, che appunto si sono sentiti, i professionisti, intendo gli autonomi, le partite IVA, insomma, chi si è sentito un po' dimenticato in questa fase? Assolutamente sì. Noi all'inizio pensavamo appunto di essere nel reddito di ultima istanza, poi siamo stati compresi nell'articolo 28 delle 600 euro. Il problema è che con 600 euro per un lavoro autonomo, per un possessore di partita IVA, sono veramente poche. Noi per agenti di commercio attualmente, come la stragrande maggior parte degli italiani, non stiamo lavorando, non stiamo fatturando e quindi ci aspettiamo sicuramente questo trimestre con provvigioni molto basse, e con 600 euro una partita IVA ci fa veramente poco. Poco, anche se poi è previsto, sì, è previsto che poi questo contributo diventi mensile. E poi è vero anche, Petranzan, che ci dicono dal governo, ci sono tutte le altre agevolazioni, per esempio la sospensione di mutui e prestiti e via dicendo. Insomma, qualche elemento c'è, dite voi, serve di più. Sì, serve assolutamente di più. Vede, le nostre provvigioni vengono pagate trimestralmente e questo trimestre, gennaio, febbraio, marzo, sicuramente saranno molto basse, ma anche il prossimo trimestre noi per avere le prossime provvigioni dobbiamo aspettare il mese di luglio, e tutto ciò se gli affari vanno a buon fine. Affari andati a buon fine si intende gli affari che vengono anche, diciamo, viene corrisposto l'importo, vengono saldati, e oggi quello che mi dicono i miei associati è che c'è anche un'emergenza liquidità, per cui molti pagamenti non vengono effettuati e questo incide anche sul pagamento delle nostre provvigioni. Quindi 600 euro sono sicuramente insufficienti, sicuramente auspichiamo in un rinvio delle tasse a giugno, perché sicuramente non ci sarà la liquidità per poterle pagare, e ci aspettiamo qualcosa di più dal governo. Noi come agenti di commercio siamo molto propositivi, questa è la nostra indole, e chiediamo anche al governo la possibilità di mettere in campo le risorse del nostro ente previdenziale Nasarco, perché dove non ci arriva il governo potrebbe arrivarci la nostra previdenza complementare. La ringrazio, grazie per essere stato con noi, Petranzan, presidente della Federazione Nazionale Agenti e Rappresentanti di Commercio, di Confcommercio. E voglio dire all'ascoltatrice o ascoltatore che dice: finiamola con la storia dell'economia, si è sentito dimenticato non sono gli autonomi ma le famiglie delle persone che hanno perso la vita. Ma guardi che di quelle parliamo quotidianamente, abbiamo raccontato quello che succede a Bergamo, a Brescia, e figuriamoci se ci dimentichiamo di queste persone. Così come non ci dimentichiamo dei malati, dei tanti che sono malati in questo momento a casa con Covid-19 e non hanno magari nemmeno avuto un contatto, forse a malapena, con il loro medico di base. E tutte le loro preoccupazioni, lo sappiamo perfettamente. Questo non vuol dire che non si debba iniziare a ragionare su quello che succede, perché a un certo punto usciremo da questa vicenda, e la questione è come uscirne con le ossa meno rotte possibile dal punto di vista economico. Quindi c'è un tema che ha a che fare con la riapertura, non tanto il riaprire adesso, ripartiamo subito, quanto il ragionare come fare quando vedremo che le cose, che la tensione si allenta. Matteo Renzi. Matteo Renzi, ce l'abbiamo? Su affrontare emergenza, sull'affrontare l'emergenza, via. Come gestire l'emergenza non può essere affidato soltanto a un virologo. Il virologo deve cacciare il virus, deve lottare contro il virus. Contro la disoccupazione deve pensarci la politica. Allora, siccome io voglio essere molto chiaro sul tema della riapertura, che deve essere graduale, deve essere prudente, non c'è dubbio, ma deve essere una riapertura strategica per non commettere errori di ritardo che in altri settori ci sono stati. Signor Ministro, non facciamo lo stesso errore che abbiamo fatto qualche anno fa, quando abbiamo dato ai tecnici il compito di decidere sulla politica. Insomma, come si diceva, ha un po' aperto una breccia in questo ragionamento. Così il Presidente del Consiglio Conte ieri in conferenza stampa. Nel momento in cui avremo, valutando quello che succederà e quindi la curva epidemiologica nei prossimi giorni, in queste due settimane, noi inizieremo ovviamente a valutare ed abbracciare anche la prospettiva di entrare nella fase 2. La fase 2 è quella di convivenza col virus, di adottare delle misure, diciamo, che pian piano portano all'allentamento, per poi entrare nella fase 3, che è quella dell'uscita dall'emergenza. Così Conte, di certo, insomma, e qua bisognerà ragionare, diciamocelo, i tempi, quali saranno, in quali luoghi, in che modo, se si può far partire tutta questa serie, se ne sta parlando molto in queste ore, e anche il comitato tecnico scientifico che si occupa di tutto questo sta ragionando se iniziare a fare test sierologici a tappeto per verificare chi è immunizzato, chi ha gli anticorpi a Covid-19, e quindi poter far ripartire il paese in questo modo. Comunque le misure sono prorogate fino al 14 aprile, ma ci dice lo stesso Walter Ricciardi, che è il consulente del ministro Speranza su queste questioni, ragazzi, scordiamoci che dopo il 14 si riapra. Non è escluso, ma è improbabile, perché di fatto quello che sta succedendo è quello che abbiamo visto anche per esempio in Cina, e che l'allentamento delle misure dall'insorgenza dell'epidemia è avvenuto dopo 3 mesi, quindi il periodo di tempo in cui si può verificare la ascesa, la stabilizzazione e la diminuzione fino a che il tasso di riproduzione è minimo, quindi che non c'è il rischio per la popolazione, è un periodo più lungo. Oh, c'è un ascoltatore o un'ascoltatrice che si lamenta, dice: no, perché avete dato di nuovo la parola ad un politico? Stavo tanto bene prima, una sorta di pace mentale. Allora, io capisco perfettamente. Dall'altra parte però si faccia dire che su questo Renzi ha ragione. Poi a un certo punto la politica dovrà decidere, dovrà ragionare anche un po' sul, per così dire, sul lungo termine, sul medio termine, e stilare un piano di riapertura e di ripartenza del paese. Andiamo a chiudere, va. Peter, vai. Così come abbiamo aperto, chiudiamo con Bob Marley, col nostro inno al coraggio. GR24, ci ritroviamo dopo per la rassegna stampa.